481. Acciughe alla marinara. Questo piccolo pesce dalla pelle turchiniccia e quasi argentata, conosciuto sulle spiagge dell'Adriatico col nome di sardone, differisce dalla sarda o sardella, in quanto che questa è schiacciata, mentre l'acciuga è rotonda e di sapor più gentile. Ambedue le specie appartengono alla stessa famiglia. E quando son fresche, ordinariamente si mangiano fritte. Le acciughe però sono più appetitose in umido, con un battutino d'aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio. Quando son quasi cotte, si aggiunge un po' d'acqua, mista ad aceto. Già saprete che i pesci turchini sono i meno digeribili fra le specie vertebrate. 482. Acciughe fritte. Se volete dare più bell'aspetto alle acciughe e alle sardine fritte, dopo aver levata loro la testa e averle infarinate, prendetele a una per la coda, immergetele nell'uovo sbattuto e ben salato, poi di nuovo nella farina e buttatele in padella nell'olio a bollore. Meglio ancora se, essendo grosse, le aprite per la schiena, incidendole con un coltello di taglio fine, e levate loro la spina, lasciandole unite per la coda.